Perfetto giorno di Simone Spezia. All'indomani della visita di Mattarella, in ricordo delle vittime della mafia, appare una scritta sull'arcivescovado di Locri: più lavoro, meno sbirri. Germania e Turchia, lo scontro resta aperto mentre prosegue la repressione di Erdogan, 2000 gli arresti nell'ultima settimana. Altri 1500 tra migranti e profughi in arrivo in Sicilia, mentre il governo incontra i vertici libici a Roma, al-Sarraj e Gentiloni a colloquio. La RAI si scusa dopo il decalogo sulle donne dell'est andato in onda durante la trasmissione di Paola Perego. Maggioni dice un errore folle. Operazione a Torino contro la pedofilia. 3 allenatori di calcio sospettati di molestie su adolescenti. Sesso per giocare titolari. Una buona giornata da Simone Spezia. Bentornati ad Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Effetto Giorno @radio24.it se ci volete scrivere. C'è anche la nostra diretta sulla pagina Facebook, oltre che quella radiofonica, www.facebook.com/effettogiorno. Se volete potete commentare anche là. Tra poco vi metterò in visione in maniera da poter leggere i vostri commenti e vedere se tirarne fuori qualcuno appunto durante la puntata. In apertura dunque la cronaca da Locri. Più lavoro, meno sbirri è la scritta che è apparsa la notte scorsa sul vescovado di Locri, dove risiede il vescovo Francesco Oliva e dove in questi giorni è ospite Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, a sua volta preso di mira con la scritta «Don Ciotti sbirro». Le frasi sono state già cancellate, ma resta lo sdegno per un gesto che cade proprio nei giorni in cui Libera ha riunito i familiari delle vittime innocenti di mafia. Da Locri ieri si è levato il monito del capo dello Stato Mattarella. La mafia è ancora forte, è ancora presente, ha detto il capo dello Stato. Controlla attività economiche, legali, illegali, cerca di arruolare in ogni ambiente. Bisogna azzerare le zone grigie. La lotta alle mafie, ha concluso, riguarda tutti. Queste scritte, commenta invece il procuratore di Reggio Calabria, Cafiero De Rao, rientrano nella strategia dell''ndrangheta, che fa fuggire le imprese che il lavoro lo danno. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Zone grigie e 'ndrangheta che condiziona anche la vita della Chiesa, stando alle parole del vescovo di Locri, appunto, Monsignor Francesco Oliva, che più avanti ospiteremo nel corso della trasmissione. Andiamo all'estero intanto, resta aperto lo scontro tra Germania e Turchia. Andiamo su entrambi i fronti. Gli insulti del presidente turco Erdogan stanno mettendo a dura prova la pazienza del governo tedesco. L'accusa al cancelliere Angela Merkel di usare metodi nazisti, dopo il divieto a ministri turchi a intervenire a comizi per la comunità turca in Germania, è stata definita poco fa inaccettabile da un portavoce di Berlino, e così anche l'insistenza da parte di Ankara che la Germania copra il terrorismo dopo l'arresto, ritenuto qui pretestuoso, del corrispondente in Turchia del giornale Die Welt. I rapporti fra i due governi non sono mai stati così tesi, ma la signora Merkel è riluttante a rompere del tutto con Erdogan dopo che l'accordo con la Turchia ha consentito di bloccare l'ondata dei rifugiati dal Medio Oriente, che stava creando un grave danno per la popolarità del cancelliere, la quale vuole evitare che il problema esploda di nuovo prima delle elezioni di settembre, nelle quali va alla ricerca di un quarto mandato. Al tempo stesso però non può mostrarsi troppo arrendevole con un leader straniero che insulta la Germania. Insomma, un rompicapo sull'asse Berlino-Ankara di non facile soluzione. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Rimane altissima la tensione tra Ankara e Berlino. Erdogan da Istanbul ha nuovamente accusato ieri la Germania di sostenere il terrorismo. Poi ha parlato del reporter del Die Welt, il turco tedesco Deniz Yücel, arrestato il mese scorso nell'ambito di un'inchiesta su un gruppo di hacker turchi che hanno diffuso alcune mail attribuite al ministro dell'energia e genero di Erdogan, Berat Albayrak. A proposito di Yücel, del quale Berlino chiede il rilascio, Erdogan ha dichiarato: è ritenuto una spia e un terrorista, è stato arrestato e sarà processato dalla magistratura turca. Come se non bastasse, il ministro della difesa turco Fikri Eshök ha dichiarato: bisogna essere sordi o ciechi oppure sentire il bisogno di proteggere chi ha tentato il golpe, replicando all'intelligence tedesca per la quale la Turchia avrebbe fallito nel dimostrare che dietro il tentato colpo di Stato del 15 luglio scorso ci fosse Fethullah Gülen. Nel frattempo Ankara ha convocato l'ambasciatore tedesco dopo la manifestazione curda di sabato a Francoforte, dove migliaia di persone che hanno sfilato in occasione del Nevroz, capodanno curdo, hanno sfoggiato anche bandiere del PKK e immagini di Öcalan, fondatore dell'organizzazione, ritenuta terrorista anche dall'Unione Europea e in carcere dal 99. Un affronto intollerabile per la Turchia dopo il divieto di Berlino per i suoi uomini politici di tenere comizi in vista del referendum del 16 aprile. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. È attesa per le 14 al porto commerciale di Augusta la nave della Guardia Costiera CP 940 Dattilo, con a bordo 1477 migranti soccorsi in 7 distinte operazioni. 747 si trovavano a bordo di un barcone, 82 su un'imbarcazione più piccola e gli altri su 5 gommoni. In questo quadro, e in un quadro dunque di sbarchi che riprendono, il governo italiano e quello libico sono a confronto a Roma. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Capitolo migranti ed equilibri in Nord Africa, al centro degli impegni del governo di questa mattina. Prima il faccia a faccia a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Gentiloni e il premier libico Al-Sarraj. Un breve tweet di Gentiloni ha illustrato poco fa i temi sviluppati nell'incontro: rilancio delle relazioni con la Libia, cooperazione economica, stabilità e lotta al traffico degli esseri umani. Su quest'ultimo punto è in corso sempre a Roma la scuola superiore della polizia, la riunione dei ministri dell'interno europei e nordafricani. Oltre a Minniti, per l'Europa vi sono Austria, Francia, Germania, Malta, Slovenia e Svizzera, e poi Algeria, Tunisia e Libia. Per l'Africa c'è anche il commissario europeo all'immigrazione Avramopoulos. Si sono aggiunti poco fa gli stessi Gentiloni e Al-Sarraj. Solo l'impegno comune può consentire di regolare i flussi migratori nel Mediterraneo, ha spiegato il presidente del Consiglio. Si cercano conferme ufficiali intanto, Simone, su quanto pubblicato questa mattina da alcuni quotidiani su quelle che sarebbero le richieste libiche per controllare e fermare i viaggi dei migranti verso l'Italia, come da accordo siglato il 2 febbraio. Un costo di 800 milioni di euro tra navi, motovedette, elicotteri, gommoni, ambulanze. 12 milioni sono stati stanziati invece questa mattina dalla Commissione europea come fondo di emergenza per la Guardia Costiera italiana. È tutto, in linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Di immigrazione torneremo a parlare più avanti nel nostro giro per l'Italia. Ci occupiamo adesso invece della giornata di sciopero per una parte del trasporto aereo. Giornata no, quella di oggi per volare in Italia a causa di due scioperi nazionali. Il primo di 24 ore, ad eccezione delle fasce garantite, una delle quali sarà dalle 18 alle 21, è quello proclamato dal sindacato autonomo CUB Trasporti, un cui presidio di protesta è in corso all'aeroporto di Fiumicino. Il secondo, di 4 ore, scattato alle 13 e fino alle 17, è stato invece indetto dai controllori di volo. In vista della doppia agitazione, già nei giorni scorsi l'Italia ha comunicato di essere stata costretta a cancellare il 40% dei voli programmati sia nazionali sia internazionali, per un totale di 220 collegamenti. Al sito alitalia.com la lista dei voli soppressi e le informazioni sulle modalità di riprotezione, visto che la compagnia ha annunciato l'attivazione di un piano straordinario per garantire le partenze, possibilmente in giornata, per il maggior numero di passeggeri coinvolti nelle cancellazioni. E proprio oggi l'avvertenza all'Italia sarà al centro dell'incontro tra governo, aziende e sindacati al Ministero dello Sviluppo Economico, dopo la presentazione del nuovo piano industriale che prevede oltre 2.000 esuberi e un taglio degli stipendi fino al 32%. Un piano contro il quale i sindacati hanno già indetto uno sciopero unitario di 24 ore per mercoledì 5 aprile. Nel frattempo, un nuovo sciopero che promette di creare disagi, specie nelle grandi città, è stato proclamato dai tassisti per giovedì 23 marzo. Oggetto della protesta è ancora una volta l'emendamento del decreto legge milleproroghe che sospende fino alla fine dell'anno una serie di norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea. Con il rinvio, lamentano i tassisti, verrebbero favorite di fatto app come Uber e NCC, cioè il servizio di noleggio con conducente. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una brutta storia di cronaca che arriva da Torino. Una brutta storia di sport e di violenze psicologiche e sessuali su ragazzi minorenni. L'inchiesta della Polizia Postale di Torino, coordinata dalla Procura, va avanti da almeno un anno. Il punto di partenza è stata la denuncia dei genitori di un ragazzo di 16 anni che avrebbe subito vere e proprie molestie sessuali da parte del suo allenatore. Nell'inchiesta sono finiti in tre: un giovane allenatore di 20 anni ai domiciliari, un secondo allenatore cinquantenne in carcere con l'accusa di utilizzare il collega più giovane per ottenere materiale pedopornografico, infine un arbitro con obbligo di firma, anche lui accusato di tentare approcci sessuali nei confronti dei giovani atleti. Per tutti l'accusa a vario titolo è pedopornografia minorile e violenza sessuale. Oltre 15 ragazzi sentiti, dalla ricostruzione degli inquirenti è emerso lo schema quasi seriale seguito dal giovane allenatore, conquistava la loro fiducia, li intimidava. intimidiva, allo stesso tempo li soggiogava con la promessa di un ruolo da titolare in squadra o con la promessa di denaro o regali. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. Rai 1, sabato pomeriggio, e va in onda una cosa che ha fatto discutere, ha generato problemi e probabilmente farà cadere anche qualche testa, ossia tutta una discussione in merito al perché le ragazze dell'est, le fidanzate dell'est, siano meglio di quelle italiane. Sentiamo. Perché io su internet ho trovato un articolo che elenca i motivi per cui una donna dell'est è meglio di una donna italiana. Intrattenimento leggero sì, squallido sessismo no. Sabato pomeriggio su Rai 1 è andato in onda uno spettacolo poco edificante nel salotto televisivo di Paola Perego. La padrona di casa, insieme con altri ospiti in studio, affronta l'argomento delle donne dell'est, definite un fenomeno. L'analisi: sono sempre sexy, perdonano il tradimento, non usano i pigiamoni. E ancora, come descritto in un cartello sovraimpressionato con in basso anche un logo che recita "è sempre l'8 marzo, le donne dell'est ritrovano il fisico scultoreo dopo la gravidanza, non frignano, sono ottime casalinghe e disposte a far comandare l'uomo". Come fanno? Ce lo spiega la conduttrice. Anche secondo me sono geneticamente modificate. Le reazioni di sconcerto e sgomento dei telespettatori rimbalzano immediatamente sui social network, fino ad arrivare all'Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, che parla di siparietto disgustoso e di una lista di luoghi comuni violenti, beceri e umilianti. Polemiche che arrivano fino ai vertici dell'azienda, con il direttore di Rai 1, Andrea Fabiano, che chiede scusa senza se e senza ma per quanto visto e sentito, e della presidente del servizio pubblico Monica Maggioni, che parla di errore folle e inaccettabile. Forse non finirà tutto a tarallucci e vino, come durante il dibattito del sabato pomeriggio, quando mentre un ospite della Perego parlava di orgasmo, lei ha chiosato. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo il quadro dalla Rai. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Insomma, se considerate che è un'azienda che ha licenziato delle persone per aver modificato l'orario di Capodanno, vedremo che cosa succederà adesso. Andiamo adesso a parlare di terremoto. Come sapete, questa trasmissione ha fatto tra le sue missioni di tenere accesi i riflettori su quello che sta succedendo tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Ce lo siamo dati come spunto per tutto l'anno, finché riusciremo ad andare avanti. Nelle settimane scorse, per 3 settimane, abbiamo sentito i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto e torneremo a farlo, naturalmente non ci fermeremo, ma da questa settimana vogliamo virare un po' di più sulle attività produttive, su come ritornare a vivere, a fare economia, a guadagnare soldi per queste terre. E lo spunto ci arriva direttamente da una manifestazione che c'è stata ieri, una manifestazione dei coltivatori di Castelluccio di Norcia. Come sapete, a Castelluccio di Norcia si produce la lenticchia forse migliore d'Italia, e c'è il problema che le strade non sono sostanzialmente interrotte e quindi non si riesce a seminare. Nello Perla, il presidente della cooperativa della lenticchia IGP di Castelluccio di Norcia, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Allora, è più o meno come l'ho detta io? Sì. Quello che hai detto è la verità. Stiamo in difficoltà per la semina, per le strade interrotte da quando ha fatto il terremoto. Non ci si riesce ad arrivare? Al momento no. Noi ieri abbiamo fatto una manifestazione e non so, oggi ci dovranno dare una risposta su qualcosa. La risposta quale può essere? Di rimettere a posto le strade? Per noi che ci facessero passare su un tragitto più breve, perché il tragitto che dice il sindaco è troppo lungo. Tragitto troppo lungo, e quindi avete bisogno, come dire, di più spazio per arrivarci, più velocità per arrivarci, no? Quanto ci mettete adesso? Con i trattori ci vanno 5 ore a fare quella strada. 5 ore con i trattori ci mettete? E ci dovete andare tutti i giorni, naturalmente, no? Non col trattore tutti i giorni, ma portarlo su, poi lasciarlo se ci sarà un ricovero, che pure lì non si capisce, e poi andava indietro con le macchine. Perché non c'è nemmeno il ricovero. No, per al momento non ci sta niente a Castelluccio. Tutto, da quando ha fatto il terremoto è tutto abbandonato, ci stanno solo gli alpini. Mi dica una cosa, quante famiglie campano con le lenticchie di Castelluccio? Dai 45 ai 50. 45-50 persone. Quelle che seminano, che raccolgono. Poi dopo c'è tutto l'intotto, perché la ricchezza della semina è la fioritura. La ricchezza della semina è la fioritura, perché poi porta tanta gente a vedere, perché i fiori nascono solo due semini della lenticchia. I fiori di Castelluccio, la famosa fioritura di Castelluccio, no? Quella che attira gente da tutta Italia, anche da tutta Europa, tutto sommato. Allora, Nello Perla, grazie per essere stato con noi. Noi terremo appunto i riflettori accesi su queste zone colpite dal terremoto. Grazie a voi e in bocca al lupo naturalmente. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Ci ritroviamo tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati, ci ritorneremo tra un attimo, della scritta apparsa sul vescovado di Locri all'indomani della visita di Mattarella, una scritta contro la polizia sostanzialmente. Ci siamo occupati dello scontro tra Germania e Turchia, della RAI che si scusa dopo il decalogo sulle donne dell'est andando in onda durante la trasmissione di Paola Perego. Poi qualche ascoltatore ci scrive via SMS e mi dovrà spiegare che cosa ha a che fare tutto questo con il buonismo. Cioè era chiaramente una discussione delirante quella che è andata in onda sabato pomeriggio, non ha nulla a che fare con il buonismo o con cose di questo genere. Ci siamo occupati di migranti perché altri 1500 sono in arrivo ad Augusta ed è di questo che ci torniamo ad occupare adesso nel nostro giro per l'Italia, che dunque inizia come sempre anche in diretta sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effetto giorno e andiamo a Bagnoli di Sopra, provincia di Padova. Roberto Milan è il sindaco. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, Bagnoli di Sopra è un luogo nel quale siamo tornati più di una volta, a dire il vero. È tutta un'area quella nella quale sono stati raccolti moltissimi tra migranti, profughi, richiedenti asilo, alcuni come nella struttura che si trova nel vostro comune, ammassati oggettivamente, perché sono 800 in una struttura che quanti ne potrebbe contenere, Milan? Ma 200-300. Una ex base militare con 200-300 militari. Era una base militare con 200-300 militari e appunto ci si trovano in questo momento 800 persone. Cosa succede? Succede che ci sono stati nei giorni scorsi delle molestie nei confronti di operatrici delle COP che lavoravano là. Ieri, se non erro l'altro ieri, un tentativo di violenza sessuale. Ora qua, per chiarirlo, non è che si vuole fare il discorso, come dire, da anche un po' razzista, violentano le nostre donne. No, è semplicemente un tema di come viene gestito tutto questo dal punto di vista del Viminale e dell'organizzazione, sindaco. No, il tema è quello, la pressione, certo, che va a ricadere su determinati comuni. Questo è un esempio negativo, il più negativo di tutta Italia, perché non esiste un caso analogo in tutta Italia tranne il Mineo, in cui ci sia un campo di concentramento di 800 migranti a Bagnoli e a 5 km di distanza quello di Conetta in provincia di Venezia con altri 1200-1300 migranti. Sono campi di concentramento allestiti con un'ingerenza statale totale in comuni, in Bagnoli di Sopra, 3600 abitanti, e che stanno creando grossissime problematiche, criticità, tensioni con la popolazione, come l'aggressione di venerdì scorso. È una condizione, è un esempio negativo di quello che non si deve fare per l'immigrazione: accatastare e alloggiare per 2 anni queste persone senza fare niente, in uno stato di assistenzialismo totale. Non è possibile che le operatrici vengano molestate perché devono fare i letti a queste persone, perché devono pulire i bagni e le docce fin tanto che ci sono i migranti dentro che si lavano, ecco, quindi una condizione lavorativa per le operatrici. Sì, perché le operatrici delle COP, tra l'altro, raccontava lei, pare che siano state mandate a pulire i bagni mentre questi stavano facendo la doccia. È questo che è arrivato dalla segnalazione e ci sono delle indagini appunto in corso, perché è scattata la denuncia da un sindacato, il sindacato Labor, che sta tutelando le operatrici. È una condizione, è una polveriera, abbiamo sempre detto, una criticità gravissima, un'ingerenza statale con l'apertura di questi centri temporanei, ed è per questo che ho fatto una intimazione al ministro e al prefetto perché non vengano più portati migranti nelle basi, nei campi di concentramento a Bagnoli. Sì. E perché... Sì, qua qualche ascoltatore sindaco le dice, guardi, l'espressione campi di concentramento è un pochino troppo, francamente, insomma. Cioè, è chiaro che ci sono delle persone raccolte, messe male all'interno di questi luoghi, però i campi di concentramento, ricordiamolo, lo ricorda giustamente l'ascoltatore, sono una cosa un po' diversa, insomma, no? Allora, queste sono delle concentrazioni di migranti alloggiati in campi base, in campi militari, quindi io li chiamo campi di concentramento. Non è questo modo di gestire il fenomeno di migrazione, non è questo il modo di alloggiare delle persone e in uno stato di assistenzialismo puro. Si creano dei mostri con delle richieste aggiuntive a questi migranti, a queste persone, perché queste persone devono essere gestite in tutto altra maniera, non certo in uno stato di assistenzialismo. La ringrazio, grazie Roberto Milan, sindaco di Bagnoli di Sopra, per essere stato con noi. E noi adesso ci spostiamo dall'altra parte d'Italia e ci spostiamo a Locri. Saluto il vescovo Francesco Oliva, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, allora non è una gran bella giornata, nel senso che veniamo da una giornata di domenica in realtà bella, nella quale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è venuto là per ricordare le vittime della criminalità organizzata. Una giornata nella quale comunque si prepara una grande manifestazione, quella di domani, proprio il ricordo delle vittime della criminalità organizzata, e però è una giornata nella quale sono apparse sui muri del Vescovado, lo abbiamo raccontato in apertura, delle scritte pesanti che dicevano più lavoro meno sbirri, e poi c'era anche scritto sul muro Don Ciotti sbirro, Don Ciotti che in queste ore è ospite vostro, no? Sì, intanto qui è una giornata di sole, una bella giornata di sole, quindi con la luce emergono anche questi nei, che sono questi messaggi che vengono dati. A me dispiace, io esprimo a Don Luigi, esprimo tutta la mia vicinanza, perché la giornata di domani è una giornata condivisa, bella, la prima volta che si svolge qui nella Locri, e credo che era veramente opportuno organizzare qui a Locri, nella Locri, questa giornata. Come valuta questi messaggi, queste scritte che sono apparse? Intanto mi dispiace che ci sia questo riferimento a Don Luigi, ma il richiamo è a due problemi grossi della Locri: il problema dell'ordine pubblico, perché qui c'è, che non è un problema l'ordine pubblico, ma voglio dire la presenza diffusa qui dell'Andrangheta è un problema che va molto attenzionato, perché esso in qualche modo blocca lo sviluppo, la crescita di questa terra, e quindi la presenza delle forze dell'ordine è una presenza essenziale e necessaria per tenere a freno questo fenomeno. L'altro problema è il problema del lavoro, che lo sappiamo bene, è un problema che tocca molta parte di questa nostra società, e la gente spesse volte per avere un lavoro deve ricorrere al caporalato di turno o al boss, e questo non sta bene, perché tocca la dignità della nostra gente. Senta, il lavoro è un diritto, non... Senta, Monsignor Oliva, pensa che siano un avvertimento queste scritte? Perché voi la sua attività e l'attività della vostra diocesi contro la criminalità organizzata è stata forte. Pensa che siano un avvertimento? Ma non credo. Noi andiamo avanti per la nostra strada, abbiamo una missione da portare avanti, che è una missione soprattutto di annuncio del Vangelo e di denuncia anche di quelle situazioni che non vanno. E lei in un'intervista oggi su Corriere della Sera, cioè il titolo forse è un po' forte, però l'elemento c'è: l'Andrangheta condiziona anche la vita della Chiesa, dice lei. Ovviamente parliamo proprio di quel territorio, del territorio nel quale siete, quello nel quale le processioni si trasformano in inchini ai boss. Sì, e siamo noi, abbiamo da lavorare molto su questo versante, molto, perché tante manifestazioni vanno purificate proprio perché hanno poco di sacro e di ridotto. Quindi il nostro impegno è anche in questa direzione, perché non possiamo abbandonare quelle che sono originariamente manifestazioni di fede, non possiamo abbandonare a chi di fede non ne ha. La ringrazio, grazie a Francesco Oliva, vescovo di Locri, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro a lei, evidentemente. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e ci ritroviamo subito. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: altri 1500 tra migranti e profughi in arrivo in Sicilia, mentre il governo incontra i vertici libici a Roma. Al Sarraj Gentiloni a colloquio. Più lavoro, meno sbirri. La scritta apparsa sull'arcivescovado di Locri, sul vescovado di Locri all'indomani della visita di Mattarella, in ricordo delle vittime della mafia. La Rai si scusa dopo il decalogo sulle donne dell'est andato in onda durante la trasmissione di Paola Perego. La Maggioni dice un errore folle. Germania e Turchia, lo scontro resta aperto mentre prosegue la repressione di Erdogan. 2000 gli arresti nell'ultima settimana. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo. Prima di chiudere, come sapete, la puntata del lunedì è un po' più corta. Beh, ci occupiamo di sci femminile, perché al gigante di Aspen il podio è stato tutto azzurro, lo sapete. Alle finali di Coppa del Mondo, ultimo gigante femminile della stagione. Prima Federica Brignone, seconda Sofia Goggia e terza Marta Bassino. Adriana Fracchia ha raggiunto Mario Cotelli, l'ex direttore tecnico della nazionale italiana di sci alpino degli anni 70 e artefice della valanga azzurra. Sentiamo cosa le ha detto. Questo esploit è stato fatto nell'ultima gara. Quest'anno l'obiettivo per tutti erano i mondiali. Fino ai mondiali non siamo riusciti a fare questo tipo di gare, a vincere in questo modo. E lo slalom gigante era stato dominato da Worley e dalla Schifrin. Sul finale di stagione capitano molte cose strane nel mondo dello sci. Quelli che se erano andati un obiettivo l'hanno raggiunto, staccano l'acceleratore, come è successo ieri con la Schifrin e con la Worley. Quindi, al di là del fatto che praticamente è un corso senza avversari, c'è da dire che noi abbiamo una bellissima squadra di gigante femminile, una squadra che sta in piedi soprattutto per la rivalità interna, e è la concorrenza che muove il mondo. Più noi creiamo campioni all'interno della stessa squadra, più avremo spirito di emulazione, più vinceremo belle gare in Coppa del Mondo, forse anche in Mondiali Olimpiadi. In questo momento lo sci femminile batte lo sci maschile almeno 3-0. Anche nel mondo dello sport dipende moltissimo dalla concorrenza. Se le nazioni concorrenti riescono a trovare i soldi per allenarsi, per preparare molti atleti, la concorrenza si farà più dura. Oggi gli italiani sono i più fortunati, perché godiamo delle prebende che ci dà il CONI, godiamo delle prebende soprattutto dei corpi militari. Unico caso al mondo, sono tutti militari, ed essere militari in questo momento aiuta moltissimo a entrare nel mondo dello sport con le spalle coperte da uno stipendio. E così chiudiamo dopo aver parlato di sci. Adesso ci fermiamo come sempre, c'è il nostro Mario Platero che lunedì va un po' in anticipo, poi ci fermeremo, ci saluteremo in anticipo come tutti lunedì e daremo la linea ad Autotrasporti. Sentiamo America 24.